Forza Cherie, forza Cherie, non mi fare perdere tempo, insomma, dobbiamo andare in onda, è tardissimo, i dischi, sono pronti i dischi. Il caffè, Cherie, il caffè, senza il caffè, no. Come siamo già in onda? Benvenuti all'Early Bird Special. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left. Signed Old Father Thames, it seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down. Chewing through your wimpy dreams, they eat without a sound. Digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear, wear, wear. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves his stars right off. Follow on, with a twist of the world we go. Follow on, to Aloha, passerottini e passerottine care. Martedì 20 novembre 2007. Benvenuti all'Early Bird Special, che è la prima colazione che serviamo tutte le mattine, dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, quello della buona musica, quello della tazza di caffè nero bollente, quello delle chiacchiere sulle vostre rock and roll star preferite. Siamo pronti? Io direi proprio di sì. Loro sono Van Halen, Law Walks In. e facciamolo entrare questo amore. Love Walks In, ce lo portavano i Van Halen, come la dolce Cherie mi porta i vostri messaggi, le vostre email che mi scrivete copiose alla mia casella di posta elettronica bird@radiorockfm.com. utilizzatela, sfruttatela, scrivetemi quello che volete, soprattutto le vostre storie di rock and roll. Per il momento Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City. Ain't

put you down and turned you round and put you in your place. Another day, another dollar, another pretty face, another chance to lose yourself in the endless race. Triumph, Hold On, ma non è di loro che vi voglio parlare, ma del grande, enorme, superlativo Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era un musicista talmente innovativo da riuscire a sconvolgere, da solo, la scena inglese. Eric Clapton commentò una volta l'effetto che fece Jimi Hendrix sui musicisti inglesi, non solo sui chitarristi, fu fenomenale. Piaceva a tutti. Ma tutti ne erano un po' gelosi, una cosa piuttosto controversa che durò parecchio tempo. Ma tutti finirono per ammettere che Jimi fu la singola persona che cambiò radicalmente la scena musicale. E se lo dice Eric Clapton, possiamo crederci. A proposito di quei giorni, Paul McCartney dei Beatles disse che se gli avessero chiesto di diventare un altro musicista, beh, quell'altro musicista sarebbe stato sicuramente Jimi Hendrix. Era un tipo a posto, molto gentile, commentò Paul McCartney, che era presente domenica 4 giugno 1967 al Savoy Theatre. Quella sera, quando si alzò il sipario, Jimi entrò in scena suonando la sua versione di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Paul rimase piuttosto sconcertato dalla cosa, visto che il disco era uscito solo 3 giorni prima. Evidentemente, quell'album dei Beatles significava molto per Jimi Hendrix, tanto da impararselo e volerlo suonare dal vivo 3 giorni dopo la sua uscita nei negozi. Paul lo ammirava moltissimo e quel suo omaggio rimarrà per sempre tra i suoi più piacevoli ricordi. Uno dei massimi onori ricevuti durante la carriera di Paul McCartney. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will ever. Nobody of it is worth. Solo grande musica all'Early Bird Special, Jimi Hendrix, una cover di Bob Dylan, All Along the Watchtower. Early Bird Special, la prima colazione per voi e che significa anche una tazza di caffè nero bollente per me, che la Dolce Cherie con i suoi tacchettini a spillo mi sta portando proprio in questo momento. Me la sto proprio godendo questa mattina. E voi? E voi? Cosa mi dite? Early Bird Special, ci sentiamo fra pochissimo.